resta freddo veramente. Ma dove finisce quello che non finisce? Mentre restiamo in coda, chiedere a te non è servito a niente. Chi vuol capire capisce, sì. Ti ho visto salutare una ragazza bionda. Quante lacrime nell'acqua tonica, e sembrava di bere il mare. Ma quanto parli, mollami, che è solo venerdì. Ah, ah, amico, cerca sì. Devi sapere che per piacerti di più ti ho mentito. Caramelle mischiate all'arsenico, e scaldarsi al fuoco di un accendino rubato. Oddio che ansia però, piazza San Marco era bella da far schifo. Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce quando chiamano la polizia, e la tua mano è ancora nella mia. Alle tre però c'è ancora gente, ti passa ma non finisce qui. Chissà dove sarà quella ragazza bionda, con te lacrime nell'acqua tonica. Fortuna ci piace il sale, ma quanto parli, mollami, che ancora è venerdì. E noi che siamo sempre qui, devi sapere. Per piacergli di più gli hai mentito. Caramelle mischiate all'arsenico, e scaldarsi al fuoco di un accendino rubato. Oddio che ansia però, piazza San Marco era bella da far schifo. Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce, solamente noi, soli noi, soli noi, soli noi, soli noi. Pensa a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo, nello stesso identico modo. Ma la notte finisce quando chiamano la polizia, e la tua mano ancora nella mia.